Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Europa, Europa. L'unione utile fa la forza. Di Gigi Donelli. Cari ascoltatori, ben ritrovati a questo appuntamento con Europa Europa. Oggi partiamo inevitabilmente da uno dei molti aspetti che sono stati all'interno della due giorni di Bruxelles. Basterà citare un'agenzia, una delle tante, diciamo firmata da Michel Barnier. Dice: siamo assolutamente determinati a trovare un accordo equilibrato con il Regno Unito, ma non a qualsiasi costo. Continuerò intensi negoziati nei prossimi giorni, e aggiunge: siamo uniti. Così il capo negoziatore dell'Unione Europea sulla Brexit, Michel Barnier, dopo la discussione, e mi permetto di aggiungere l'ennesima discussione con i leader europei e poi con la controparte britannica. Allora, Beda Romani in collegamento con noi. Intanto, Beda, buongiorno. Buongiorno, grazie. Allora, partirei dal fatto, la crisi, diciamo, l'ennesimo capitolo della complessità Brexit si è riaccesa qualche settimana fa, quando Boris Johnson ha di fatto fatto quello che in Europa pare un dietro front, quando la partita sembrava chiusa. Cosa è successo? Alla fine dell'anno scorso la Gran Bretagna e l'Unione Europea, come si ricorderanno gli ascoltatori, hanno firmato un accordo di divorzio. Un accordo di divorzio che ha permesso nei fatti alla Gran Bretagna di uscire dall'Unione Europea da un punto di vista giuridico, politico, il 31 gennaio di quest'anno. Nelle scorse settimane il governo Johnson ha presentato alla Camera dei Comuni e ha ottenuto l'approvazione del Parlamento di una legge che rivede in parte questo accordo di divorzio, là dove l'intesa organizzava al meglio il rapporto tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. Ricordo che l'obiettivo dell'accordo di divorzio tra Bruxelles e Londra era quello di evitare il ritorno di una frontiera tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, e affidava alla Gran Bretagna una specie di controllo doganale sulle merci in transito tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna. Questo era un modo per evitare il ritorno del confine fisico in Irlanda, sull'isola d'Irlanda. Questa legge, che è stata approvata dal Parlamento, rimette mano nella sostanza a questo impegno britannico, e evidentemente ha creato non poca sorpresa e non poche critiche sul continente, in un momento in cui peraltro le parti stanno trattando un accordo di partenariato per il futuro. Insomma, la frontiera dell'isola d'Irlanda tra la Repubblica e l'Ulster rimane, direi anche inevitabilmente, un tema molto caldo. Ce n'è un altro di cui abbiamo letto in questi giorni, che riguarda quello della pesca. Allora, in che senso e perché la pesca è così un tema delicato? Allora, questo tema della pesca è un tema centrale per l'accordo di partenariato, in altre parole per l'accordo che dovrebbe entrare in vigore, se tutto va bene, se viene siglato, se viene concluso, dovrebbe entrare in vigore il 1 gennaio dell'anno prossimo, e la pesca è un aspetto cruciale, anche se bisogna dire economicamente pesa molto poco sia per la Gran Bretagna sia per l'Unione Europea. Eppure è importante. Perché è importante? Perché la Gran Bretagna diventa paese terzo e intende, con l'uscita dall'Unione Europea, riappropriarsi, per così dire, delle proprie acque territoriali. Quando era membro dell'Unione Europea, i pescatori francesi, danesi, belgi potevano pescare liberamente nelle acque territoriali britanniche, e viceversa i pescatori inglesi potevano pescare nelle acque del continente. Si sta cercando di trovare un accordo. Il problema della pesca è un problema eminentemente politico. Sia in Gran Bretagna sia sul continente, penso in particolare alla Francia, al Belgio, all'Olanda, i pescatori sono una lobby molto rumorosa, politicamente che pesa molto, anche se, come dicevo prima, economicamente non pesa granché. Per la Gran Bretagna è un aspetto cruciale di Brexit potersi riappropriare delle proprie acque nazionali. Peraltro c'è anche un aspetto inglese molto particolare. Molti pescatori britannici sono scozzesi, vogliono difendere quest'idea della riappropriazione delle proprie acque territoriali e evidentemente Boris Johnson, il primo ministro britannico, teme di firmare un accordo che possa essere visto negativamente dai pescatori scozzesi, con naturalmente tutte le conseguenze possibili da un punto di vista politico, visto che la Scozia sta flirtando con la secessione dal Regno Unito. Grazie a Beda Rubano, ricordo corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles, grazie ancora anche questa settimana per averci aiutato a comprendere quello che accade intorno all'Unione Europea, nell'Unione Europea. Grazie Beda. Grazie molto Gigi. Grazie ancora Beda Romano. Tra i temi della due giorni al vertice di Bruxelles c'è stata anche la Turchia, la politica estera dell'Unione Europea. La scorsa settimana è stato nostro ospite l'europarlamentare PD Maiorino. Tra poco invece avremo Vincenzo Sofo, esponente della Lega, insediato ufficialmente il 1 febbraio di quest'anno, proprio quando gli europarlamentari britannici hanno lasciato l'Europarlamento. Parliamo con lui di politica estera, di diritti civili, del perché la Lega ha deciso di votare contro le sanzioni ad personam decise nei confronti della Russia. Tutto questo tra pochi minuti. Prima però Silvia Bernardi ci parla dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Nato nel 2008, ha dato vita a più di 1000 produzioni, ha coinvolto 5000 studenti, ha avviato più di 60 poli innovativi in tutta Europa ed è la più grande rete europea dell'innovazione. È diretto da Diva Tommei, che ci racconta, che racconta a Silvia Bernardi, l'ultimo progetto finanziato per il tracciamento dei contagi da Covid. Innovazione insieme a sostenibilità sono le due parole chiave dell'attualità economico-finanziaria. Ma cosa vuol dire innovazione a livello europeo? Vuol dire innanzitutto integrazione tra imprese, istruzione e ricerca per trovare una soluzione concreta a sfide o problemi. Ma dalle parole passiamo ai fatti. Un esempio di come si traducano le strategie e i fondi europei alla soluzione di problemi reali come il Covid ce lo porta Diva Tommei, direttore dell'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia, la più grande comunità europea dedicata all'innovazione. Partner italiani e spagnoli che lavorano insieme per sviluppare un progetto di contact tracing che non si basa sullo smartphone, sull'utilizzo dello smartphone, ma sulla creazione di un token, di un piccolo device grande quanto 2 euro, che portando con un sistema di tracking dietro completamente anonimo, che però permette alle persone di comunicare tra di loro quando diciamo insorge un positivo, perché tutti questi token nelle communities in cui vengono distribuiti, ad esempio un nuovo focolaio, mantengono traccia dei movimenti delle persone in modo completamente anonimo e fanno sì che nel momento in cui uno di questi fa il tampone e diventa positivo, poi questo può essere comunicato a tutti quei token e quindi agli utenti di quei token che con quella persona a un certo punto per un esteso periodo di tempo sono stati troppo vicini e quindi gli indicano di andare a fare il tampone. Questo permette di evitare l'approccio del tampone fatto a tutti in un'area, anche persone che magari con il positivo non sono mai entrate in contatto. Quindi voi praticamente siete un connettore di innovazione e un distributore di fondi, giusto? Noi riceviamo i fondi dalla Commissione europea e poi selezioniamo le proposte dei nostri partner che riteniamo migliori e le andiamo con questi fondi a cofinanziare. L'altra parte del finanziamento arriva direttamente dai partner. L'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia ha più di 1000 partner ed è la più grande rete europea dell'innovazione che riunisce le informazioni provenienti da luoghi e paesi diversi. Il loro compito è quello di mettere in grado gli innovatori e gli imprenditori di trasformare le loro migliori idee in progetti prodotti, servizi, lavoro e crescita. L'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia è nato nel 2008 e conta più di 60 poli dell'innovazione in tutta Europa. Sostiene più di 3.200 imprese in fase di avviamento ed espansione. Ha creato 13.000 posti di lavoro coinvolgendo oltre 3.000 laureati che hanno conseguito master o dottorati di ricerca. All'attivo ha più di 1.170 tra nuovi prodotti e servizi. Insomma, parlare di innovazione europea significa inevitabilmente passare dall'Istituto Europeo di Innovazione e Tecnologia. Grazie a Silvia Bernardi. Dunque, viabilità adesso e torniamo insieme tra poco. Europa, Europa. Vincenzo Sofo, che è nato a Milano nel dicembre dell'86, esponente della Lega, nato a Milano da genitori calabresi, cosa che conta qualcosa in questa storia, nella sua storia, considerando che poi è stato eletto come europarlamentare, candidato quindi nel sud. Buongiorno e grazie di essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora Sofo, la prima domanda è inevitabile. In settimana, prendo il titolo del Corriere, ma insomma andrebbe bene praticamente qualsiasi, Salvini sposa la linea Giorgetti, tour e dialogo con l'Unione. Allora Sofo, cosa ne pensa? C'è un cambio di rotta? No, ma guardi, in realtà ovviamente è bene, diciamo, che ci siano sempre dei confronti, ma se voi andate a guardare comunque l'atteggiamento che appunto la nostra delegazione, quindi la delegazione ha avuto, la delegazione Lega ha e ha avuto sempre al Parlamento europeo, è sempre comunque un atteggiamento, diciamo, di critica e di opposizione, ma di carattere costruttiva. Quindi insomma l'Italia fa parte dell'Unione europea e quindi insomma infatti il nostro obiettivo è quello di cercare di cambiarla il più possibile, nel senso che ovviamente consideriamo, ma credo che la storia ci stia dando anche qualche ragione, che l'Unione europea così com'è non funzioni o funzioni molto poco. Insomma, di sicuro non sta facendo ad oggi purtroppo dell'Europa, no, una potenza sullo scenario internazionale, e quindi insomma ci proponiamo di influenzarne il cambiamento. Per essere una potenza ci vogliono tante cose, ci vuole anche una politica estera, e noi di questo essenzialmente parliamo. Lei è parte anche di Euronest, un gruppo creato nel 2011, ha relazioni intense con paesi come Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova, Ucraina, insomma quelli che ci stanno intorno. Lei questa settimana ha incontrato armeni azeri che, lo ricordo, magari per i più distratti, hanno ripreso a combattersi in maniera drammatica da 10 giorni una guerra che va avanti da 30 anni. Allora l'Unione Europea da che parte sta? Questo infatti è la prima domanda che ci poniamo tutti, nel senso che, come ha detto lei, l'Unione Europea, per essere, diciamo, per far dell'Europa una potenza, innanzitutto tu ti devi concentrare sulla politica estera, quindi sul ruolo che tu vuoi dare al tuo continente in quelle che sono le dinamiche e gli scenari internazionali. Invece il problema dell'Europa è proprio che, diciamo, invade molto il campo su quelle che sono poi, diciamo, le politiche interne degli stati membri, mentre poi invece è totalmente assente sullo scenario internazionale. Da che parte dovremmo stare secondo lei? Ma io penso che ci siano due elementi fondamentali, che sono quelli che ho presentato nell'interrogazione e quelli che ho esposto a entrambi gli ambasciatori. Il primo elemento essenziale che io ho posto, diciamo, come domanda, e ho posto in primis all'Azerbaigian, quindi alla rappresentanza dell'Azerbaigian, è il rischio che questo venga elevato a conflitto di civiltà, e quindi, diciamo, con le denunce che sono state fatte sull'utilizzo di jihadisti, no, come forze, diciamo, militari in questo conflitto. L'Azerbaigian lo nega, dall'altra parte ci sono media che hanno già fatto uscire documentazioni di carattere video e fotografico. L'Unione Europea deve stare molto attento a questo, perché, e questo rientra appunto nell'Armenia, che invece, essendo popolo cristiano, perché l'utilizzo della religione, in questo caso dell'Islam, no, politico, no, del terrorismo islamista, perché poi gli jihadisti questo sono, certo, significa, e quindi l'utilizzo dell'elemento religioso per, diciamo, aumentare la portata del conflitto, tra l'altro ha un'incidenza nel nostro continente. Per ora mediazione, ho ben capito? Certo, serve una mediazione per garantire la stabilità di quel paese e impedire che ci sia un conflitto religioso, e soprattutto impedire che ci sia una superpotenza, Russia o Turchia che sia, che poi prenda il dominio di quell'area che appunto interessa l'origine di quel corridoio meridionale. Chiarissimo. Di cui parlavo. E questo è maledettamente complicato, anche perché, lo ricordo agli ascoltatori, diciamo, storicamente l'Armenia è supportata da Mosca e l'Azerbaigian da Ankara. Altre domande, e arriviamo proprio alla Russia. 17 settembre, quando il Parlamento europeo ha votato due risoluzioni riguardanti importanti elezioni in Bielorussia e l'avvelenamento del leader dell'opposizione Navalny, ha votato con una maggioranza schiacciante. Voi non avete sostenuto, da una parte avete votato no a quelli della Russia, dall'altra vi siete astenuti sulla Bielorussia. Perché? Allora, perché c'è un problema relativamente a questo. L'utilizzo che si fa dei famosi diritti, diciamo diritti civili in ambito geopolitico, no? Il problema dove sta? Prendiamo per esempio il caso della Russia, no? Un conto è quella missione dell'Europa di garantire la stabilità, i diritti umani. Un altro conto è invece l'utilizzo, diciamo, strumentali questi diritti civili in ambito retorico, come fanno spesso dei gruppi politici al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo la maggior parte del tempo si parla di cose totalmente inutili e invece non ci si concentra sulle cose strategiche. È il fatto che, per esempio, guarda, se voi prendete i nostri principali paesi partner da un punto di vista commerciale, importazioni, esportazioni, energia, troviamo nella lista dei primi, diciamo 30 per esempio, diversi paesi, esempio la Cina, esempio la Turchia, esempio i paesi del Golfo come Qatar, eccetera, che hanno notevoli problemi da un punto di vista di diritti civili, no? Abbiamo mai messo in causa i nostri rapporti, per esempio, commerciali per questo motivo qua? Però mi scusi, Sofo, se diciamo, no, l'esempio è chiaro, però se lei dice siccome non l'abbiamo fatto in altre situazioni continuiamo a non farlo, cioè di fronte alla Bielorussia, di fronte alla Russia nello specifico, noi siamo partner della Russia, nessuno auspica che non ci sia, però questa è una situazione molto specifica, perché votare no al fatto che la Russia deve dare una risposta all'avvelenamento di un leader politico d'opposizione? No, è diverso votare no all'utilizzo delle sanzioni economiche come strumento, perché è uno strumento totalmente inefficace, okay. Abbiamo visto in passato, e che ci danneggia più le sanzioni alla Russia. Prendete per esempio soltanto i dati riportati dalla Coldiretti sui danni nel settore agricoltura causati dalle sanzioni alla Russia. È chiaro che l'interesse nazionale è prioritario, però nel momento in cui abbiamo iniziato questa conversazione sul ruolo della politica estera europea, siamo consapevoli, per carità, che non dobbiamo essere sempre tutto d'accordo, però che queste distinzioni indeboliscono, o meglio impediscono, una politica estera europea. Ma le distinzioni tra paesi all'interno dell'Unione Europea sicuramente, okay. Questo sono il primo a concordare, ma la Libia, a proposito di paesi, diciamo, di politica estera, è il caso lampante, no? Il problema in Libia l'ha creato in primis l'Europa, il problema della mancata soluzione, diciamo, è nato dice qua in Libia, è proprio a causa delle divisioni interne all'Europa, perché non riusciamo ad avere una politica come in primis con la Francia. La mia domanda, e riporto a quello che gli ho chiesto poco fa, abbiamo detto la Russia, però c'è anche di mezzo la Bielorussia. Ora, la Bielorussia è una situazione completamente diversa, di sicuro non ha un peso economico tale da, diciamo, essere significativa. Allora, perché non avete sostenuto le sanzioni ad personam a un gruppo molto specifico di leader bielorussi? Guardi, glielo spiego subito. Se lei guarda, diciamo, le votazioni a quella risoluzione, in realtà, diciamo, la risoluzione non mirava alla Bielorussia, mirava cosa? Alla Russia. Cioè questi casi qui, così come l'Azerbaigian, l'Armenia, in realtà dietro troviamo un gioco geopolitico legato alle superpotenze, sulla quale dobbiamo essere chiari come stati membri che tipo di posizione univoca però portare avanti, perché se dobbiamo interrompere i rapporti con la Turchia o con la Russia o con la Cina o con gli Stati Uniti, però dobbiamo essere chiari sul fatto che o lo si fa tutti o non è che l'Italia può andare chiaro a suicidarsi. Per la Bielorussia, che tutto sommato è un paese, secondo me, ma è un punto di vista personale, emblematico, perché in fondo è un piccolo paese, 9 milioni di abitanti, in una posizione scomoda tra la NATO e la Russia, che cosa dovrebbe fare l'Europa? Ma guardi, allora è evidente che l'Europa debba essere in prima linea sempre, sottolineo sempre, per quello che è la sorveglianza sui diritti umani, eccetera eccetera. Ora, insomma, non riconoscere un voto, diciamo, democratico è un atto molto forte che richiede, diciamo, delle prove ovviamente molto forti a sostegno, no? Penso che si debba andare molto molto delicati su questa cosa qua, soprattutto perché appunto la Bielorussia, l'ha detto benissimo lei, in realtà, diciamo, la Bielorussia è un piccolo paese, ma per quale motivo c'è questa concentrazione? Perché la Bielorussia è un terreno, diciamo, molto importante di confronto, scontro, incontro, certo, tra superpotenze, no? Quindi la anche, tra Occidente, perché poi abbiamo visto anche delle Oriente, manifestazioni, quindi, di persone vere o sono tutte finte? Certo. No, esattamente, però dobbiamo stare anche lì molto attenti, perché okay. Io mi ricordo e tutti ci ricordiamo bene anche le primavere arabe, no? Poi che cosa hanno portato, nel senso bisogna sempre stare attenti, siccome in politica internazionale sappiamo che poi le influenze straniere da una parte e dall'altra sono all'ordine del giorno. Cosa vorrebbe che l'Unione facesse? Io vorrei che l'Unione Europea, diciamo, piuttosto che diciamo ossessionarsi su quelle che sono le scelte di politica interna dei governi nazionali, invece iniziasse a essere un consesso di cooperazione tra stati nazionali, proprio per trovare una convergenza, un'univocità dal punto di vista della politica estera. Questo però parte da cosa? Ma come si fa, Sofo? La missione che l'Europa si vuol dare. Il vero tema sarà, sa quando emergerà? Quando ci sarà la famosa conferenza, no, sul futuro dell'Europa. Perché lì dovremmo trovarci, guardarci in faccia e dire: ma che cosa vogliamo fare dell'Europa? Che cosa vogliamo essere come Europa? Che ruolo vogliamo avere nel mondo come Europa? Ecco, però nel frattempo i fatti, e abbiamo parlato appunto di Bielorussia, le manifestazioni si moltiplicano, la repressione si moltiplica. Non crede che dovremmo dire qualcosa di molto chiaro, e che cosa, a Minsk in questo caso? Se ci sono delle violazioni di diritti umani, così come se c'è un avvelenamento di una persona, così come diciamo avviene in molte parti purtroppo del mondo, su questa cosa è evidente che l'Unione Europea debba avere un atteggiamento chiaro, ma deve avere un atteggiamento chiaro e coerente su tutti gli scenari. Quindi sulla Russia che cosa vorrebbe che facesse Putin per la questione Navalny? Innanzitutto aspettiamo di capire effettivamente diciamo questo avvelenamento, perché e poi chi l'ha fatto, per quale motivo l'ha fatto, dopodiché si andrà. Però per questo c'è bisogno di un'indagine russa. Dovremmo, allora, il caso dell'avvelenamento è evidente che si debba diciamo fare un'indagine seria, approfondita, su chi sia l'autore e la motivazione dell'avvelenamento. Sulla Russia invece in generale, che è il vero tema, io penso che l'Europa, diciamo, nel quadro delle alleanze storiche che ha, ce lo siamo detto, ovviamente debba comunque obbligatoriamente anche trovare una via, un percorso di dialogo con questa diciamo superpotenza, che tra l'altro è diciamo una nostra vicina di casa. Grazie a Vincenzo Sofo, lo ricordo, europarlamentare della Lega, 33 anni, siamo nell'Europa e la vogliamo cambiare, ci ha detto tra l'altro. E mi ha fatto venire in mente che proprio qualche giorno fa una collega tedesca, una collega giornalista, mi chiedeva a che punto fosse il percorso di Italexit nel nostro paese. Percorso che appunto in certe fasi storiche la Lega, Salvini solleva con forza, Salvini e non solo, ma lui soprattutto. Bene, adesso l'impressione è che questo tema sia archiviato. Abbiamo sentito anche Sofo quando dice: siamo nell'Unione e la vogliamo cambiare. Certo, archiviare non significa dimenticare. In Italia, come in diversi paesi dell'Unione, e di un'Unione che oggi eroga miliardi ed è chiaramente più digeribile di una che chiede sacrifici. È tutto per questa puntata GR24 da parte mia e da Alessandro Schirano, che realizza con me questi minuti. L'augurio di un ottimo fine settimana. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.